Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete tornati all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione dalla parte di tutti i viventi, siano essi animali, umani o non umani, ideata e condotta da una redazione 100% cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Si sono concluse da poco le Olimpiadi con un modesto medagliere nel quale abbiamo notato con un certo disappunto l'Italia ha brillato soprattutto nelle specialità in cui si deve sparare, con tanto di fucili e giubbottini che esibivano il grosso logo della fabbrica di armi Beretta. Per non dimenticare che il nostro paese eccelle nella produzione ed esportazione di armi. Non so se scandalizzeremo qualcuno, ma noi preferiremmo meno medaglie, ma le armi finalmente estromesse dalle discipline sportive olimpiche. Torniamo subito su una vicenda che ci riporta a Rio. Ha fatto discutere molto sui social la vicenda di Adelinde Cornelissen, l'amazzone olimpionica, atleta specializzata nel dressage, che ha ritirato il suo cavallo dalle Olimpiadi perché, dopo essere stato curato per la puntura di un insetto velenoso, non si era ancora ripreso del tutto e non era tornato in forma. In molti articoli del settore, ma anche in molti commenti sui social, si sono spese parole di apprezzamento per l'amazzone, che ha giustificato il suo ritiro con il grande amore e rispetto per il suo cavallo Percival. A molti, e confessiamo anche a noi, il gesto è sembrato una piccola breccia nel cinismo del mondo ippico. Italian Horse Protection, però, l'associazione toscana che recupera i cavalli sfruttati e sequestrati e che conosce molto da vicino l'ambiente ippico, ha fatto luce sulla vicenda spiegando alcuni retroscena imbarazzanti. Intanto si scopre che Adelinde Cornelissen è una dressagista più volte criticata e accusata di usare la tecnica del rollcour nell'addestramento del suo cavallo. Il rollcour consiste nel forzare una iperflessione del collo dell'animale attraverso l'uso di redini e imboccature estremamente coercitive. Una posizione innaturale che può causare lesioni cervicali e lesioni tendinee al cavallo. Secondo alcuni studi, il rollcour viene praticato con chiudi bocca particolarmente stretti che possono anche interferire con la respirazione del cavallo, comprimendo la laringe, inibendo la deglutizione. Durante il movimento con il collo così arcuato verso il basso, il cavallo, che per natura ha una visione verticale molto limitata, ha anche evidenti problemi a vedere ciò che gli sta davanti. Adelinde Cornelissen, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra, è allieva di uno dei principali fautori e promotori del rollcour come tecnica di addestramento. Assieme a loro un manipolo di altri cavalieri amazzoni che sottopongono i loro cavalli a questo scempio calcano tranquillamente le scene internazionali e addirittura vincono medaglie in competizioni mondiali e olimpiche, ci segnala Italian Horse Protection. E questo perché? Perché la FEI, la Federazione Internazionale, mantiene da anni una posizione molto ambigua. Formalmente vieta il rollcour, ma ammette una tecnica chiamata Low Deep Round, LDR, che alla fine dei conti poco si discosta. Non mancano in rete video che ritraggono la Cornelissen e il povero Parzival in alcune gare e in alcune foto si può arrivare a constatare che la bocca del cavallo sta sanguinando. D'altra parte, i cavalli obbediscono ai fantini, soprattutto per il dolore che provoca loro il morso, un autentico strumento di tortura che speriamo di vedere prima o poi diventare un cimelio da museo. Restiamo nella cronaca agostana e restiamo in ambito ippico. Si è svolto il 16 agosto il consueto Palio di Siena, che da qualche anno è diventato un fenomeno televisivo al punto da venire trasmesso in diretta dalla RAI e sempre Italian Horse Protection ci ha fatto notare con i suoi comunicati che come ogni anno i media si sono sforzati di rappresentare il Palio come una vera e propria festa, arrivando anche a occultare la verità, specialmente quando questa riguarda la condizione degli animali impegnati in quella corsa. Quest'anno non ci sono stati cavalli rovinosamente caduti in pista, ma i commentatori hanno potuto omettere di dire che un cavallo era fermo a bordo pista su tre gambe. Successivamente alcune testate online riportano la falsa notizia diramata dal comune, secondo cui Reynald King aveva solo un gonfiore, mentre invece il cavallo aveva una frattura dell'arto. Che fine avrà fatto Reynald King? Difficile riuscire a saperlo. Un altro aspetto imbarazzante di questa edizione del Palio di Siena è il fatto che il vincitore di quest'anno, Jonathan Bartoletti, è lo stesso fantino che tre anni fa diede così tante nerbate al suo cavallo Mamutones alla partenza del Palio di Asti da causare una violenta reazione di difesa di quel povero animale che per sottrarsi ai colpi inciampò rovinosamente sul canapo rompendosi l'osso del collo. A seguito di quel vergognoso comportamento Asti squalificò Bartoletti per 10 anni, ma Siena, che si proclama la città che ama e rispetta i cavalli più di chiunque al mondo, non è andata tanto sottile e ha lasciato correre il Bartoletti. Siena ha costruito e sta continuando a costruire una maschera tutta giocata sulla scarsa conoscenza delle persone comuni, convinte a suon di immagini spettacolari che i cavalli siano realmente partecipi e vogliosi di correre il pario. E ora che queste persone aprono gli occhi, tante informazioni e immagini sulla pagina Facebook e nel sito internet di Italian Horse Protection. Drammatica. Un bambino di 1 anno e mezzo aggredito e ucciso da 2 cani di famiglia, 2 dogo argentini nel giardino di casa. È accaduto in provincia di Catania e la notizia ha riaperto la discussione sulla pericolosità dei cani e sull'atteggiamento da tenere nei loro confronti. Su questo episodio è stato detto di tutto. Noi abbiamo interpellato uno dei massimi esperti italiani in questa materia, Roberto Marchesini, etologo, filosofo, fondatore della scuola di interazione uomo-animale. Sentiamo. Roberto Marchesini, partiamo da qui. Il cane dogo, che tipo di cane è? Ah, certamente sono quei cani come, non lo so, che richiedono una buona conoscenza, nel senso che io per anni ho avuto Rottweiler, anche Rottweiler è un cane che ha bisogno di una guida sicura, ha bisogno di qualcuno che sia estremamente dolce ma nello stesso tempo fermo nel indicargli determinate strade. Allora diciamo che sono cani che si affidano molto, però che hanno bisogno di presenze particolari, insomma non è il cane che puoi lasciare da solo in giardino e puoi pensare che possa in qualche modo sviluppare un'identità comportamentale equilibrata. Sono cani che tutti i monosoidi sono cani che tendenzialmente hanno un forte bisogno di una presenza assidua. Certo è che in via generale, senza entrare nello specifico, va detto che sono cani impegnativi, sono cani che comunque non tutte le persone possono tenere, perché sono cani che richiedono una presenza molto forte, non sono cani potenzialmente pericolosi. Questa è una visione che proprio mi trova completamente in disaccordo. Non è un cane potenzialmente pericoloso, è un cane che ha bisogno di avere delle presenze, una presenza costante, ha bisogno di avere delle persone che siano delle basi sicure, cioè che siano dei riferimenti certi, in modo tale che il cane, insomma, li segue e quindi non prende delle iniziative che possono anche essere problematiche. Quello che dico sempre è che chi prende questo tipo di cane deve farsene carico e deve avere una forte responsabilità, così come se hai dei cani e hai un bambino piccolo. Inevitabilmente devi stare molto attento, perché a volte l'incidente può essere dovuto a mille cause, a volte anche i bambini possono avere dei comportamenti inadeguati, possono ferire a volte gli stessi animali, perché magari un bambino piccolo non si rende conto, mette un dito in un occhio, oppure il cane che fa le feste il bambino cade, oppure ci possono essere dei comportamenti del bambino che richiamano dei comportamenti predatori, insomma, sono mille le situazioni, i genitori devono essere fortemente presenti. Io sono sempre stato attento, ho avuto figli e cani, e ho sempre mantenuto attenta alla vigilanza, soprattutto per i bambini che sono al di sotto dei 4-5 anni. Il grosso problema che io rilevo in questo periodo è che c'è una forte tendenza ad amare i cani, questa è una cosa molto bella, eccetera, però senza conoscerne le caratteristiche, perché le persone sono, vivono all'interno di un mondo di fantasia, vivono all'interno dei cartoni animati della Disney, tendono a non vedere il cane per quello che è, ma fanno una loro proiezione del cane, quindi molto spesso non hanno comportamenti adeguati. Tu cosa pensi di questa espressione che viene usata dai media, il cane killer, ogni volta che succede un episodio di questo tipo? I media sono particolari nel fare disinformazione. Non esiste il cane killer, cioè, può essere il cane che magari può avere qualche problema comportamentale perché ha subito dei maltrattamenti, ha subito delle carenze, ci può essere quel cane che non ha una corretta relazione con la persona. Ma in linea di massima, nella mia esperienza, il 99% delle situazioni sono attribuibili a una cattiva relazione con la persona. Il cane sicuramente non ha colpa di tutto questo. Che si fa seguire da un gruppo di papere. Questo è uno dei tanti commenti che si possono trovare in rete sul libro di Konrad Lorenz intitolato L'anello di Re Salomone. Premio Nobel nel 1973, padre della moderna etologia, Konrad Lorenz ha dato un contributo decisivo alla sensibilizzazione verso il mondo animale. Lo sguardo fresco e quasi fanciullesco di Lorenz verso gli altri animali nell'anello di Re Salomone si fa straordinariamente coinvolgente. La sua curiosità, la sua passione, l'incredibile abilità nell'interpretare desideri e bisogni degli animali contagiano chi legge e storicamente immaginiamo che abbiano contribuito a passare da una concezione di animale oggetto a quella di animale individuo. Certo, non si tratta di un libro antispecista e nemmeno animalista, siamo più a un livello di appassionata zoologia. Ma forse Lorenz ha rappresentato un anello di congiunzione tra la zoologia e l'animalismo, intendendo che per lui comunque è ancora ammissibile acquistare animali, allevarli, cederli a uno zoo quando non li si può più gestire. qualcosa di molto lontano dalla nostra sensibilità attuale. Eppure Lawrence ha sensibilizzato generazioni di persone che magari dopo quel libro si sono avviate a fare ulteriori riflessioni. Quel che è certo è che Lawrence ci porta nel suo privato, all'interno di una casa con le porte e le finestre aperte costantemente a infinite specie animali, con le quali ha vissuto in piena sintonia, a stretto contatto, con un misto di divertimento, di atteggiamento di studio, di voglia di farsi sorprendere, di apertura all'imprevisto. E il libro ci rende partecipi di questa avventura. Si resta col fiato sospeso quando Lawrence racconta del giorno in cui nell'acquario capitò di vedere il pesce gioiello che si era ritrovato in bocca, sia un gustoso verme, sia uno dei suoi piccoli. Uno dei due doveva finire nello stomaco, mentre l'altro doveva venire riportato nel nido. Il pesce padre si immobilizza e sembra vivere una vera e propria situazione conflittuale. Come l'avrebbe risolta? Come il migliore dei padri di famiglia. Infatti sputò fuori tutto il contenuto, mangiò prima il verme, senza perdere di vista il piccolo, e poi, quando ebbe finito, aspirò il piccolo e lo riportò nel nido con la mamma. L'Anello di Re Salomone è pieno di scenette come queste, scene di gioco, soluzioni di problemi, malintesi del linguaggio, strategie per tenere alta la propria reputazione, inibizioni sociali, e i protagonisti sono taccole, gazze, pesci, anitre selvatiche, oche domestiche, grandi pappagalli, cani, gatti e altri animali. La biografia di Lawrence, però, va detto, non ci è piaciuta. Nato in Austria nel 1903, aveva 34 anni nel 1937 ed è stato conquistato dallo spirito del tempo. Si fece raccomandare come simpatizzante del nazismo e scrisse disinvoltamente di eugenetica e igiene razziale. È molto deludente che un uomo con gli strumenti intellettuali di Konrad Lawrence si sia fatto irretire da Hitler. D'altra parte, anche in Italia, solo 13 docenti universitari ebbero il coraggio di dire di no al fascismo. Nonostante questa delusione, l'Anello di Re Salomone resta un testo significativo e in alcuni passaggi addirittura entusiasmante, come in questo, che vi invitiamo ad ascoltare. Ho già detto che le taccole serbano una profonda memoria delle persone che hanno provocato la loro rumorosa reazione aggressiva, cioè delle persone che le hanno prese in mano. Ciò mi fu di grave ostacolo quando volli mettere l'anello alla gamba delle giovani taccole della mia colonia. Se provavo a prenderle dal nido per contrassegnarle con gli anelli della stazione ornitologica, non potevo evitare che le vecchie taccole, vedendomi, intonassero subito un furioso e rumorosissimo concerto. Come potevo dunque impedire che a causa di questa operazione si imprimesse negli uccelli una permanente paura della mia persona, che avrebbe enormemente ostacolato le mie ricerche? La soluzione era semplice. Dovevo travestirmi. Ma come? Anche per questo c'era una soluzione assai semplice e a portata di mano in una cesta su in soffitta. Una soluzione che si prestava assai bene al mio scopo, anche se di solito vi si ricorreva solo per carnevale. Un magnifico costume da Belzebù, con fitto pelo e una maschera che copriva tutta la testa, con corna e lingue e con un'imponente coda a ciuffo che sporgeva fuori abbondantemente. Che cosa avreste pensato una bella mattina di giugno udendo improvvisamente un selvaggio gracchiare proveniente dal tetto di una casa e scorgendo lassù un diavolo con corna, coda e artigli, la lingua penzoloni, certo per il caldo, che scalava un camino dopo l'altro circondato da uccelli neri che strillavano in modo assordante? Credo che l'impressione generale facesse passare inosservato il fatto che il diavolo saldava con una pinza anelli di alluminio intorno alle zampe delle giovani taccole, riponendole poi delicatamente nel nido. Solo a operazione finita mi accorsi che giù in strada si era addensata una folla di persone che mi guardavano non meno allibite di quei turisti che a Pentecoste si erano fermati al di là della siepe. Ma se mi fossi fatto riconoscere, sarebbe fallito in pieno lo scopo della mia operazione, e quindi mi limitai a scodinzolare amichevolmente prima di scomparire nella finestrella della soffitta. My heart. patterns to the broken sound. You're the only one that can calm me down. My head spins in circles, so I'm dizzy now. All of this time I should have figured it out. Cara, hai sentito l'ultima succulenta sparata di Vissani? Quel raffinato maître à penser? Sì, proprio lui. Fosse per me, li ammazzerebbe tutti, ha detto Vissani. La forma, cioè l'italiano, è quello che è, e la sostanza pure, visto che si tratterebbe di far fuori tutti gli umani che si nutrono di sole sostanze vegetali, inclusa quindi la nostra redazione per intero, Giuseppe. Naturalmente non c'è nulla da temere, sono solo parole in libertà, ma la non violenza evidentemente disturba e suscita reazioni scomposte. E poiché gli chef televisivi sono una categoria a parte, vezzeggiata oltre misura, la sgrammaticata affermazione ha fatto il giro del web. Il nostro Gabriele Palloni, che la non violenza la pratica, questa settimana ci offre una ricetta speciale con una punta di peperoncino. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Parafrasando un vecchio film di Benigni, prima di ricreativo principiamo coi culturale. C'è aria di polemica fra i fornelli e il vostro vegan chef di fiducia non poteva esimersi. Si vocifera che qualcuno vorrebbe noi vegani settaioli addirittura morti. Non faccio nomi, tanto non serve. Questa settimana non si è parlato di altro in TV e nei social. Ecco, secondo me è proprio questo il male maggiore. Non voglio entrare nella diatriba e controbattere a suon di offese e colpi bassi. Secondo me il problema non è culinario e neppure etico. Qui l'unico problema non è la fame, ma la fama. Già, perché quando i riflettori si spengono è dura accettare e ritirarsi in decoroso silenzio, oppure coraggiosamente rinnovarsi. Molto meglio cavalcare l'onda del becerume e tornare a far parlare di sé ricorrendo a mezzucci, appoggiando magari il tornaconto dell'industria alimentare. Per quanto mi riguarda, preferisco fare il vuoto a queste provocazioni. Se in TV parlano di vegan, ma sappiamo quali sono gli argomenti e chi sono gli ospiti, spengiamo la televisione e riascoltiamo una vecchia puntata di Restiamo Animali. E a te, che mi vorresti morto, al tuo livore dedico la ricetta di oggi, che in virtù di questo stancante modo di fare notizia ho battezzato Keep Calm, o come si direbbe dalle mie parti, sta armo. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione canto un po'. Questi sono gli ingredienti per 4 persone per il Keep Calm. Trattasi di un risotto al pesto di valeriana e camomilla. Gli ingredienti sono 320 g di riso carnaroli, 100 g di insalata valeriana, una manciata di foglie di basilico, mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di pinoli, un cucchiaino di mandorle non pelate, un piccolo spicchio di aglio e camomilla da infuso. Iniziate preparando una bella camomilla lasciando in infusione i fiori in acqua bollente almeno per 5 minuti. A parte, lavate le foglie di valeriana e lasciate asciugare bene. Nel bicchiere di un mixer mettete le mandorle ed i pinoli, lasciandone alcuni interi per decorare il piatto alla fine. Tritate e quindi aggiungete l'aglio al quale avrete precedentemente tolto l'anima interna. Tritate ancora un po', quindi unite la valeriana ed il basilico assieme ad un cubetto di ghiaccio spaccato. Fate tritare fino ad ottenere una crema liscia di un bel verde acceso. Togliete dal mixer e mescolando con un cucchiaio aggiungete l'olio extravergine aggiustando di sale. In un tegame fate riscaldare un cucchiaio di olio extravergine e quindi fate tostare il riso per pochi minuti. Non aggiungeremo né cipolla né bagneremo col vino il nostro risotto, affinché il sapore delicato della valeriana e della camomilla non siano alterati. Portate il riso a cottura con l'infuso di camomilla, lasciandolo molto cremoso. Infine aggiungete il pesto di valeriana fuori dal fuoco e lasciate riposare per qualche minuto. Servite guarnendo con qualche pinolo intero ed un fiorellino fresco di camomilla. Thank you. Oggi, cara Camilla, ascoltiamo un brano di un personaggio che farà impazzire sia te che la nostra Francesca De Matteis, perché siete sempre a caccia di cose fuori dagli schemi. Parliamo di Louis Thomas Hardin, conosciuto con il nome d'arte Moondog, un musicista geniale, fuori dagli schemi, cieco dall'età di 16 anni, che visse e morì da povero, amante delle leggende legate agli dei nordici, che si cuciva gli abiti da sé, un vero consumatore critico ante littera. Lo vedo, Camilla, ti sta venendo il pelo d'oca! Le sue composizioni hanno influenzato i più importanti nomi della musica del suo tempo, e non solo. Moondog ci interessa perché ha usato nelle sue composizioni suoni della natura e versi di animali. Ha anche inventato strumenti nuovi, sempre autoproducendoseli, e ha collaborato con diversi musicisti come Jim McGriff, i Pentangle, Philip Glass e tanti altri. Molti sono i brani di Moondog dedicati agli animali, e tra questi, visto che purtroppo si è appena svolta l'ennesima Sagra degli Osei, ho scelto Birds Lament. Ma non vi saluteremo prima di avervi ricordato tutti i contributi che hanno reso possibile questa puntata, e che sono stati quelli di Roberto Marchesini, Italian Horse Protection, il cavallo Parzifal, il cavallo Reinhard King, il compositore e autore statunitense Moondog, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e l'amazzone sempre a caccia di notizie succulente Camilla Lattanzi, che non cavalca e non va a caccia. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.